Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Il governo Berlusconi in aula alla Camera a fine settembre, il PDL insiste, il ruolo di Fini incompatibile. Ripresa a rilento per l'Italia, dice il Fondo Monetario Internazionale, gli italiani tornano a puntare sul mattone. Una scelta di chiarezza, la presidente di Confindustria appoggia Federmeccanica, la FIOM pronta allo sciopero. Il federalismo un'opportunità, ma servono più tutele, i comuni si appellano a Maroni dopo l'uccisione del sindaco di Pollica. Buongiorno dalla redazione, ancora una buona giornata da Anna Migliorati. Questi i nostri titoli. Cominciamo però dall'economia con l'Italia, che avete sentito cresce, ma pesa la disoccupazione, la ripresa è lenta, dice il Fondo Monetario Internazionale, che meno di un'ora fa ha pubblicato la fotografia dell'economia italiana, e sentiamo i primi particolari da Simone Spezia. Buongiorno Anna e buongiorno agli ascoltatori. Ebbene, sia la Banca Centrale Europea che la Federal Reserve nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, avevano segnalato le difficoltà della ripresa. Oggi lo fa anche il Fondo Monetario Internazionale, che parla di una ripresa che resta fragile e rischi al ribasso per l'economia che restano elevati. E punta il dito il fondo sull'elevato livello di disoccupazione, che pone grandi sfide sociali. Per quanto riguarda l'Italia, anche qua si parla di crescita, viene previsto un PIL nel 2010 in crescita dello 0,9%, per quanto riguarda il 2011 c'è una revisione, una lieve revisione al ribasso ad un più 1%, da segnalare che per il 2011 il governo invece prevede una crescita dell'1,5%. A cosa è dovuto secondo il fondo questa ripresa lenta italiana, che sarà ancora più lenta, scrivono gli esperti nel World Economic Outlook, rispetto a Francia e Germania? Perché un persistente problema di competitività limita lo spazio per la crescita dell'export, e ancora il consolidamento dei conti pubblici indebolisce la domanda privata. È tutto. Grazie Simone Spezia. Intanto però arriva anche un altro dato: gli italiani che tornano a puntare sul mattone. Il mercato immobiliare rialza la testa, e nel primo trimestre di quest'anno le compravendite sono aumentate del 2,3%, così i dati Istat. Quello del mercato immobiliare era uno dei settori più duramente colpiti dalla crisi, continua contestualmente a crescere il numero di mutui, che nei primi tre mesi hanno segnato un balzo del 13,7%. Difende la decisione di Federmeccanica di cancellare il contratto di categoria del 2008 la presidente degli industriali Emma Marcegaglia. Lo ha fatto questa mattina parlando da Milano. Loredana Marchesi cosa ha detto? Grazie per la linea dalla fiera di Milano per la manifestazione Milano Unica, che ha visto la presenza del presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che è chiaramente tornata a commentare la disdetta del contratto dei metalmeccanici da parte di Federmeccanica. Emma Marcegaglia ha voluto sottolineare che non è che i metalmeccanici con questa disdetta non abbiano più un contratto. 2 milioni di lavoratori metalmeccanici, ha detto Emma Marcegaglia, hanno tuttora un contratto vigente, che è vigente dal 1 gennaio del 2010. Noi stiamo pagando gli aumenti, ha detto il presidente Confindustria, e quindi non è che i lavoratori sono senza contratto. Il presidente di Confindustria ha detto che ci troviamo in una situazione complessa dal punto di vista delle relazioni sindacali, perché c'è un pezzo del sindacato che vuole insieme agli industriali cambiare le relazioni sindacali e rendere le imprese più competitive. Questo permetterebbe di pagare anche dei maggiori salari, ma c'è una parte, evidentemente la FIOM, che non vuole accettare questa logica. Quindi la presidente di Confindustria ha concluso dicendo di auspicare che la FIOM ci possa ripensare e che quindi si possa sedere al tavolo e discutere con gli altri sindacati di un adeguamento delle relazioni sindacali, anche se ha detto di sperarci poco. E vi restituisco la linea. Grazie a Loredana Marchesi. Intanto la FIOM proclamerà in giornata 4 ore di sciopero in tutte le aziende metalmeccaniche. Replica duramente il segretario generale Maurizio Landini, lo ha intervistato Daniela Binello. Noi non abbiamo intenzione di accettare questa decisione, per noi rimane valido il contratto firmato nel 2008 e votato da tutti i lavoratori. e decideremo, discuteremo oggi nel Comitato Centrale anche i tempi, le forme, le modalità con cui presenteremo anche una piattaforma per il rinnovo del contratto. Credo che accettare il diktat della FIA, perché questo è quello che è avvenuto, e far diventare Pomigliano la regola dei diritti nel nostro paese sia un grave errore per le imprese, perché in questo modo passa l'idea che per lavorare bisogna cancellare i diritti ed è sbagliato. La notizia dell'ultima ora l'avete sentita in apertura dei nostri titoli. Arriva dalla politica, dove una decisione è arrivata. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. È una vera e propria situazione di stallo quella che sta vivendo la maggioranza. Berlusconi e Bossi stringono il cerchio attorno al presidente della Camera. Fini tuttavia replica: non mi dimetto. Al Cavaliere resta a questo punto la strada del confronto parlamentare, mettere l'ex presidente di EN di fronte alla prova del voto sui 5 punti programmatici. Ed è notizia di pochi istanti fa: il presidente del Consiglio Berlusconi si presenterà in aula a fine settembre, terrà probabilmente un discorso di rilancio della legislatura e su questo chiederà la fiducia ai finiani. Il premier vuole evitare il logoramento nei mesi a venire, da qui la prova del 9 a Montecitorio, che possa chiarire se è il caso di proseguire con l'attuale coalizione o se, come invoca Bossi, sia meglio tornare alle urne. Resta aperto intanto il capitolo del coinvolgimento del Quirinale nell'attuale fase politica. Berlusconi e Bossi insistono affinché Napolitano prenda atto del ruolo non più super partes di Gianfranco Fini come presidente della Camera. Lo ha ripetuto poco fa nella capigruppo anche Cicchitto. Dal Colle fanno sapere che una richiesta del genere sarebbe però irricevibile sia dal punto di vista costituzionale che parlamentare. E da Roma è tutto. E allora che margine di manovra ha davvero il Quirinale? Sentiamo Dino Pesole. Seppure con la consueta prudenza e diplomazia, il messaggio che traspare in queste ore al Quirinale appare netto. Le richieste, se così si può dire, di dimissioni di Gianfranco Fini da presidente della Camera, avanzate e non si sa in effetti con quale forza e convinzione da Berlusconi e Bossi, sono irricevibili. Non esiste nel nostro ordinamento l'istituto delle dimissioni per via istituzionale dei presidenti delle Camere. Dal punto di vista politico, Napolitano non potrà fornire dunque alcuna copertura né avallo all'offensiva di Bossi e Berlusconi contro Fini, sia in attesa al Colle delle prossime mosse. E appare tutt'altro che scontato che Napolitano decida di sciogliere le Camere in caso di crisi di governo. Il ruolo e la prassi gli imporrebbero comunque di tentare altre strade prima di decretare l'interruzione della legislatura nata appena 2 anni e mezzo fa. Se si sposta la questione poi sul piano strettamente politico, Napolitano è ovviamente attento a tutte le possibili evoluzioni della crisi apertasi nella maggioranza, ma con un'avvertenza di fondo: le massime istituzioni dello Stato, Quirinale in testa, non possono in alcun modo essere coinvolte nel tritacarne della polemica politica quotidiana. Occorre il rispetto delle prerogative costituzionali da parte di tutti, va ripetendo il capo dello Stato. Così il commento di Dino Pesole. Questa mattina abbiamo chiesto nel nostro sondaggio, vi abbiamo chiesto se secondo voi Fini dovrebbe dimettersi da presidente della Camera. Gli ascoltatori di Radio 24 hanno risposto no per il 63%. E intanto oggi ha parlato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il Capo dello Stato ha partecipato a Roma alla cerimonia in ricordo dell'8 settembre, deponendo una corona di fiori a Porta San Paolo a ricordo dei caduti della Resistenza, e ha parlato così. Momenti della Resistenza, momenti eroici che hanno anche segnato la conclusione tragica della vita di nostri soldati ufficiali, e avete potuto vedere soprattutto la bellissima lapide che il Comune ha posto in ricordo delle donne che hanno perso la loro vita per la libertà. Mi pare che il significato sia del tutto evidente e sempre attuale. In Campania, a Pollica, si preparano i funerali per Angelo Vassallo, il sindaco ucciso con 9 colpi d'arma da fuoco. I funerali, terminata l'autopsia fissata per oggi, si terranno domani, forse nel porto di Acciaroli, dove il primo cittadino ex pescatore aveva vissuto a lungo. A Salerno invece da circa un'ora è in corso il comitato per l'ordine e la sicurezza alla presenza del direttore centrale della polizia criminale. I sindaci sono esposti anche per le maggiori competenze previste dal federalismo, bisogna tutelarli. Intanto la richiesta che arriva dall'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, attraverso Vito Sant'Arsiero, delegato per il Mezzogiorno, che a Radio 24 anticipa: chiederemo un incontro a Maroni. Lo ha intervistato Raffaella Calandra. La vicenda di Angelo Vassallo fa diventare questa questione una questione che necessita di essere affrontata in maniera diretta. Diventa questione da affrontarsi nel merito con relazioni più strette che dovremo avere con le prefetture, con le forze dell'ordine, con le procure per prevenire, per meglio tutelare gli enti locali. Proporrete un più stretto coordinamento tra enti locali, prefetture e procure? Certamente sì. Ci sia da parte degli enti locali un meccanismo di trasferimento di notizie e di informazioni che possano essere utili a favorire il contrasto alla malavita organizzata. Quindi si può ipotizzare ad esempio una vostra segnalazione in un incontro con Fitto? Ha chiesto un incontro a Fitto. È evidente che da oggi questa questione diventa non soltanto prioritaria, un episodio come questo rende ancor più necessario affrontare tematiche che riguardano la sicurezza ed affrontarle in maniera diretta con i ministeri interessati. Lo faremo anche con il ministro Maroni. L'esposizione dei sindaci è resa ancora maggiore dai poteri ancora più forti che arrivano ai sindaci e agli enti locali in generale dal federalismo. È un pericolo. È chiaro che bisogna intervenire con azioni di tutela, bisogna far sentire gli amministratori locali e i sindaci protetti, ma il problema prioritario resta le azioni di sviluppo del territorio che vanno accompagnate con le azioni di tutela. Torniamo all'economia, perché Fastweb continua a correre dopo l'annuncio del suo prossimo addio alla borsa. Deborah Rosciani. Sì, la notizia circolava da almeno una settimana a Piazza Affari. Stamattina dalla Svizzera la conferma era sempre stata smentita in questo frangente. Il consiglio di amministrazione di Swisscom ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto sulle quote di minoranza del gruppo delle telecomunicazioni italiano. Quote di minoranza che valgono il 17,9% del capitale. Prezzo proposto 18 euro per azione, un'operazione che complessivamente vale 256 milioni di euro. Oggi infatti il titolo vola, si allinea al prezzo dell'offerta, offerta per la quale non sono ancora state fissate le date, si attende l'ok della Consob. Il gruppo è sinonimo della banda larga italiana, la più importante azienda nel settore delle comunicazioni in fibra ottica, simbolo della new economy del nostro paese. All'epoca della quotazione, molti lo ricorderanno, nel 2000 si chiamava Ibiscom, oggi è quella che viene anche identificata con la massiccia campagna pubblicitaria incentrata su Valentino Rossi, azienda che negli ultimi mesi ha fatto anche parlare di sé per l'inchiesta della Procura di Roma per un giro di presunte false fatturazioni fra il 2004 e il 2007, inchiesta che ha portato in carcere anche l'ex numero uno e fondatore Silvio Scaglia. Oggi dunque Fastweb passa completamente in mani svizzere con l'obiettivo di dire addio alla borsa italiana, ma gli svizzeri promettono l'OPA non pregiudicherà l'identità di azienda italiana di Fastweb. È tutto. Grazie a Deborah Rosciani. E si è concluso poco fa il patto di sindacato di RCS Media Group, chiamato secondo le attese a esaminare le linee del futuro piano strategico del gruppo editoriale. Oggi era il giorno del debutto in rappresentanza della Fiat del presidente John Elkann, che poco fa uscendo ha commentato: è andato tutto bene, c'è coesione, non ci saranno modifiche al patto. Voltiamo decisamente pagina, sta tornando la normalità a Genova. Nella notte c'è stata paura per un fortissimo nubifragio, maltempo un po' su tutto il nord, allora andiamo in Liguria e poi in Veneto. Annunciata dagli esperti, la perturbazione si è scatenata su Genova per tutta la notte con violenza. Ore e ore di pioggia torrenziale, con l'acqua che ha invaso case, magazzini e negozi e trasformato strade e piazze in fiumi in piena. Centinaia le chiamate giunte ai vigili del fuoco, rinforzati da colonne mobili arrivate da altre province. Panico a Multedo e Pegli per alcuni automobilisti rimasti intrappolati negli abitacoli mentre percorrevano i sottopassi allagati. Per portarli in salvo sono intervenuti i sommozzatori. Il primo piano di una casa di riposo è stato sgomberato, con gli anziani trasportati a braccia dai soccorritori. Scene da paura nei vicoli del centro storico, dove l'acqua ha raggiunto anche il mezzo metro. I fulmini hanno lasciato al buio interi quartieri. Disagi anche sulle autostrade, dove ora la situazione è tornata alla normalità. Nell'entroterra del Levante il nubifragio ha provocato frane e smottamenti. Alcune frazioni sono tuttora isolate. Andrea Ferro, GR24, Sole 24 Ore, Genova. Tra le 7 e le 10 di questa mattina in Veneto è stato il diluvio. Fortissimi scrosci di pioggia hanno colpito soprattutto le province di Padova e Venezia, mandando in tilt prevalentemente la viabilità. Fortunatamente non ci sono stati fenomeni violenti come trombe d'aria, ma i disagi causati dalla pioggia battente si sono registrati anche per il traffico autostradale, rallentato per allagamenti sul tratto Padova-Mestre della A4 e sulla A13 tra Padova e Monselice, oltre che lungo la tangenziale di Mestre. L'ARPA del Veneto ha lanciato l'allarme meteo fino a domani mattina perché il maltempo a ondate continuerà ad abbattersi su tutto il nord-est e dunque il rischio di allagamenti è più che reale. Comunque, in questo momento il maltempo sta concedendo in Veneto una pausa, anche se le temperature registrate sono molto al di sotto della media stagionale. Silva Menetto, GR24, Il Sole 24 Ore, Venezia. Le 13:20 minuti, le notizie di oggi di GR24, il governo Berlusconi in aula alla Camera a fine settembre. Il PDL insiste, incompatibile la carica di Fini. Ripresa a rilento per l'Italia, dice il Fondo Monetario Internazionale, gli italiani tornano a puntare sul mattone. Una scelta di chiarezza, la presidente di Confindustria Marcegaglia appoggia Federmeccanica, la FIOM pronta allo sciopero. Bruciare il Corano l'11 settembre condanna unanime un grave oltraggio, dice anche il Vaticano. Ripartiamo da qui, ripartiamo dall'estero. Prima c'è una notizia dell'ultima ora, una vera e propria battaglia avvenuta in Nigeria, nel nord del paese. Almeno 732 detenuti del carcere della città di Bauchi sono evasi a sostenere la loro fuga a un attacco di presunti fondamentalisti islamici. Ma intanto, dicevamo, è polemica sull'annuncio arrivato, la proposta arrivata da parte di un gruppo americano, evangelista americano, di bruciare il Corano l'11 settembre, anniversario dell'attentato delle Torri Gemelle. Poco fa ad intervenire è stato anche il Vaticano, condannando duramente da parte del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso la proposta. A quei deprecabili atti di violenza, afferma una nota del Vaticano, non si può porre rimedio contrapponendo un gesto di grave oltraggio al libro considerato sacro da una comunità religiosa. Condanna durissima arrivata anche dall'alto rappresentante della politica estera europea Catherine Ashton e anche al-Azhar, la massima istituzione sunnita del Cairo. La Lega Araba e Fratelli Musulmani hanno condannato il progetto del gruppo evangelista americano. Il primo a condannare l'ipotesi era stato il generale Petraeus. Kabul scende in piazza, lo state sentendo, contro Terry Jones, il pastore evangelico della chiesa di Gainesville in Florida, che ha confermato l'iniziativa di bruciare copie del Corano l'11 settembre, nel giorno dell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle. Si starebbero mobilitando anche le comunità islamiche negli Stati Uniti, mentre dall'Afghanistan ha lanciato l'allarme il generale Petraeus, comandante delle forze militari NATO e americane. Le immagini del rogo di un Corano verrebbero utilizzate, ha detto, dagli estremisti in Afghanistan e in tutto il mondo islamico per incendiare l'opinione pubblica e incitare alla violenza. Eppure Jones non fa marcia indietro. We right now have plans to continue. We are thinking about it, we are praying about it. In una intervista alla CNN ha spiegato che l'iniziativa non è una dimostrazione di odio, ma un avvertimento sulla minaccia rappresentata dall'Islam. Annalita D'Ambrosio, GR24, Il Sole 24 Ore. Si attende l'autopsia per capire se è stata la trasfusione di sangue sbagliata all'ospedale Molinette di Torino a causare la morte di una donna di 76 anni. La magistratura ha aperto un'inchiesta, mentre la direzione sanitaria dell'ospedale più grande del Piemonte ha avviato le procedure per la sospensione temporanea e cautelativa del medico che ha scambiato le sacche. Devono esserci più controlli, dice intanto il ministro della Salute Fazio, e noi vi raccontiamo come si opera altrove. L'errore di trasfusione che potrebbe aver ucciso Irene Guidi al pronto soccorso di chirurgia delle Molinette di Torino non è frequente negli ospedali italiani. Lo scorso anno, su 2,5 milioni di trasfusioni effettuate, sono stati segnalati 14 errori. Nella procedura delle Molinette è previsto che al malato siano richiesti nome e cognome prima di effettuare la trasfusione. Si valuta quindi se il medico Maurizio Sacchetti, a carico del quale è stato avviato un procedimento disciplinare, e l'infermiera Roberta Leone abbiano seguito o meno la procedura. L'identificazione purificazione tra il sangue da trasfondere e il paziente avviene nella maggior parte degli ospedali italiani tramite un codice a barre. A San Martino di Belluno da alcuni anni viene sperimentato il metodo BASIC, che garantirebbe trasfusioni più sicure. Stefano Capelli è responsabile del reparto di immunoematologia. Si tratta di un meccanismo di barriera tramite la tecnologia RFID, cioè, tanto per capirci, di sistemi antitaccheggio. Alla consegna non diamo solo la sacca e il documento di accompagnamento in questo caso, ma la sacca è chiusa in un sacchetto con un blocco elettronico che può essere aperto solo se c'è la combinazione nell'identificazione del paziente al letto del paziente, perché il paziente in partenza ha anche un braccialettino con un analogo RFID. Alice Cason, GR24, Il Sole 24 Ore. Andiamo a Venezia, Marta Cagnola, buongiorno. Sì, buongiorno. In una giornata atmosfericamente e meteorologicamente un po' difficile. Riusciamo a parlare di cinema. Riusciamo comunque a parlare di cinema, perché il festival va avanti nonostante qualche difficoltà. In concorso oggi c'è l'attesissimo Venice Noir di Abdelatif Kechiche, la storia sconvolgente, soffocante della Venere 88. Una ragazza nera che veniva mostrata nelle fiere come attrazione nell'Ottocento. Una storia vera, un film al limite dell'insostenibilità, davvero molto molto duro. E poi Attenberg, il film di una regista greca molto divertente, grottesco a tratti, davvero si ride. Eppure è la storia di una ragazza che non parla con nessuno, che ha solo un rapporto di amicizia con il padre, che è in fin di vita. Strano, ma è davvero un film divertente. Oggi c'è fuori concorso Marco Bellocchio con Sorelle Mai, girato per 6 anni con i suoi allievi della sua scuola di cinema a Bobbio, nel suo paese delle vacanze fin dall'infanzia. E poi sempre fuori concorso c'è The Town, l'ultimo film con Ben Affleck, quindi un film d'azione molto americano. E poi per la retrospettiva sul comico, beh, insomma, sarà il momento di Diego Batantuono con Eccezionale Veramente. Nulla di rimandato per il maltempo. No, niente, tutto arrivare si possa svolgere come al solito, insomma, continua a piovere, però speriamo che il tempo possa volgere un pochino al meglio. Per ora pare di no, purtroppo. Grazie Marta Cagnola. Parliamo di sport ora invece. Oggi giornata chiave per la Ferrari alla vigilia del Gran Premio d'Italia a Monza per la Formula 1. Il Consiglio Mondiale della Federazione riunito a Parigi deciderà la sentenza per l'ordine di scuderia con cui Massa ha ceduto la vittoria ad Alonso in Germania. Abbiamo intervistato Angelo Sticchi Damiani, presidente della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, che è uno dei due membri italiani del Consiglio. Potrebbe anche esserci una proposta tipo un aumento della sanzione pecuniaria. Secondo me, secondo noi, la sanzione pecuniaria inflitta è più che sufficiente, ma quando anche ci fosse questa ipotesi si può anche ragionare su questo aspetto. Togliere dei punti non solo è eccessivo, non solo è profondamente ingiusto. Se ci dovesse essere un accanimento, credo che la Ferrari ha tutti i buoni motivi per sentirsi in qualche modo danneggiata. Le 13:28 minuti, ci fermiamo qui con questa edizione di GR24 curata e condotta da Anna Migliorati, in regia Filippo Aureggi. Tutti gli aggiornamenti come sempre nell'edizione delle 14. Buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.